Cari amiche, cari amici, Brussellando, Radio Alma, martedì sera è il 6 luglio. Ciao. Siamo quasi al termine di questa nostra terza edizione di Brussellando, il primo martedì di luglio. Tre anni. Mamma mia. Tra tre settimane, insomma, spegneremo la terza candelina. E il nostro successo è dovuto anche a tutti coloro che continuano ad ascoltarci, agli ospiti che continuano ad alimentare la ricchissima rete di persone che piacevolmente decidono di intrattenersi con noi al telefono per presentarci ora un'opera letteraria oppure saggi di natura diversa. Prima di passare alla puntata di questa sera, ormai già da qualche settimana abbiamo parlato un po' dei mondiali, quindi mi sembrava doveroso. Tasto dolente, non parlare. Mi sembrava doveroso, insomma, un piccolo commento. La settimana scorsa piangevamo l'uscita, insomma, poco dignitosa della nostra selezione nazionale, e beh, in questa settimana abbiamo visto effettivamente più che del bel gioco, tante belle lacrime. Insomma, simbolo effettivamente di un mondiale veramente strano, insomma, è difficile spiegare esattamente quello che è accaduto, però ci sono due fattori certi, che le squadre più preparate, e le squadre, ne cito una come la Germania da un lato e la Spagna dall'altra, o la stessa Olanda, quindi le tre europee che si giocheranno da questa sera a domani, insomma, l'accesso alle finali, ci hanno creduto sin dal primo minuto. E la Germania ha avuto il grande privilegio di scommettere anche sui giovani, di aprirsi anche ai talenti cosiddetti multiculturali, multietnici, anche se trovo che non siano nemmeno giuste queste definizioni quelli lette che da nella noi stampa. Chiamiamo oriundi. Quelli che da noi chiamiamo oriundi, quelli che a volte poi naturalizziamo perché ci fa comodo, quelli che poi, insomma, di cui poi ci dimentichiamo, ma fatto sta che la Germania, l'Olanda, la Spagna, insomma, queste tre squadre europee hanno puntato sui giovani, e chissà che non sia questa poi la ricetta vincente. Noi questa sera cercheremo di darvi anche il risultato della partita. Beh, che anche è noi in corso. Abbiamo puntato sui giovani. Dimmene uno. Nel senso che abbiamo puntato, abbiamo messo il muro, abbiamo detto il primo che si muove verrà falciato. E siamo rimasti tutti al muro, abbiamo puntati per bene proprio. A parte che i pochi giovani che c'erano in Italia hanno fatto delle figure magre. Uno che inizia per M e finisce per Archetti, ragazzi. Cioè. Beh, insomma, il caso del portiere. Montolivo, dai, vorrei non. Comunque, insomma, l'uscita della Germania, del Brasile, sicuramente, insomma, ha lasciato un po'. Senza parole. Della Germania. È dell'Argentina e del Brasile. Hai detto Germania. No, scusatemi, veramente lapsus. Peggio di non aver fatto la Francia, dai. Beh, meno male, almeno siamo in buona compagnia, insomma, voglio dire. La vecchia scuola. Mi spiace un po' per il Ghana. Che bella squadra, che mi piaceva proprio. E va a aggiornare sul risultato. Chi ha segnato? L'Olanda. Con 1-0. Chi? Rete di? Adesso vado a verificare. Ah, quindi vedi, gli olandesi già in vantaggio, ma insomma, questo era un verdetto abbastanza, secondo me, scontato. Comunque, ma beh, io ho puntato sull'Uruguay, quindi. Io ho puntato sull'Olanda per motivi anche, insomma, personali. Tifo Olanda questa sera, però se l'Uruguay dovesse accedere poi alla finale, tant mieux, chapeau anche ai sudamericani, che sono gli unici per il momento a rappresentare il continente latinoamericano. Bene, martedì prossimo ne sapremo di più, sapremo anche chi ha vinto questa edizione del campionato del mondo, quindi chi vincerà? Chi ha detto? Io vedo una bella finale Germania-Olanda. Una bella finale Germania-Olanda? Io voto per Spagna. Io invece vedo Spagna-Olanda come ai vecchi tempi delle guerre tra spagnoli e olandesi del primo Rinascimento. Beh, non torna troppo indietro. Secondo non me è ragazzi, Uruguay si riprende. Ragazzi, ha fatto gol Van Bronckhorst, il difensore. Non si aspettava nessuno, ma ha fatto gol Giovanni Van Bronckhorst. Bene. Allora, noi ritorniamo a quelli che sono i nostri fatti abituali della settimana. Questa sera chiudiamo la prima edizione della Penna del Diplomatico. Come sapete, lo scorso gennaio abbiamo lanciato questa nuova sezione in Brussellando, che ha visto protagonisti vari ambasciatori, diplomatici, alcuni dei quali già in pensione, eppure validissimi scrittori. E a noi di Brussellando fa molto piacere concludere con Domenico Vecchioni, il quale effettivamente, dopo averci veramente illuminato su quella che è stata la storia delle spie nelle diverse età, vi ricordate, abbiamo parlato delle spie dell'antichità, dell'era moderna, abbiamo parlato delle operazioni di intelligence più recenti, sui signori della truffa, vi ricordate l'uomo che vendette la Tour Eiffel e tutte le altre incredibili storie. Questa sera invece chiudiamo con tiranni e dittatori, volti, manie, deliri e crimini del potere assoluto. L'ambasciatore Vecchioni è stato molto bravo perché non prende, questo poi magari lo chiediamo direttamente a lui, quindi brevemente, il secolo che si è concluso, quindi il Novecento, è stato un secolo di totalitarismi, però è stata anche un'epoca di tiranni piccoli grandi, di despoti, che all'ombra del grande risico delle superpotenze nascono e crescono nelle plaghe geopolitiche più periferiche e improbabili, costruendo sistemi a volte effimeri, a volte capaci di resistere come imbalsamati al tempo. Ed ecco quindi che la carrellata di personaggi straordinari, veramente invito tutti coloro i quali ne avessero veramente voglia di leggere tiranni dittatori come i semi sconosciuti Maswati III, Tan Zue, Papadoc, Separ Murat Niyazov, ma anche i più famosi Bokassa, Idi Amin, Imelda, Ferdinand Marcos, Kim Il-sung, Pol Pot. Insomma, una galleria di volti tutti ugualmente feroci, tutti ossessionati dalla realizzazione dell'idea del potere assoluto, tutti afflitti da un insano distacco della realtà. E Domenico è stato veramente bravo perché ha saputo descrivere profili psicologici, tic, manie, deliri, e effettivamente lo ha fatto con grande perizia, però ha saputo anche mettere in risalto alcune caratteristiche, alcuni comportamenti, spesso al limite del ridicolo, anche se spesso, ahimè, dalle conseguenze tragiche. Eppure ci sono tanti tratti accomunanti nella costruzione politica dei singoli sistemi di potere, dalle dittature postcoloniali a quelle ispirate da fonti di natura paranormale. E questa sarà una delle nostre domande, perché credo che il personaggio di cui poi ci parla Domenico Vecchioni sul paranormale è assolutamente da descrivere anche voi ascoltatori. E ovviamente a quelli più noti, quelli che hanno caratterizzato i sistemi di propaganda e quindi gli stermini di massa, che speriamo non dover vivere mai più, dai despoti affaristi a quelli religiosi. Poteri fondati sul terrore, spesso affogati nello stesso sangue da cui sono nati. In ogni caso si tratta di personalità distorte e regimi oppressivi che lasciano al presente fosse comuni e ossari di gran lunga più grandi ed estesi di quelli generati dal sopruso quali reagirono. Quindi, insomma, ne sentiremo delle belle. Abbiamo scelto 2 o 3 storie, perché poi raccontare la lunga carrellata di personaggi ci vorrebbero forse 3 puntate di Brussellando, ma lasceremo a Domenico raccontarci i momenti più salienti e capire perché poi ha deciso di scrivere tiranni e dittatori. E un po' vediamo se ce l'abbiamo in linea, magari possiamo provare intanto a chiamarlo. Però è estremamente interessante, anche perché una domanda che farò sicuramente a Domenico è: chi è l'ultimo dittatore che ha descritto in ordine di tempo, quello più vicino a noi? E poi l'altra domanda, io ve l'anticipo, lui ancora non lo sa, è e quali altri dittatori ci sono nascosti? Tra perché le pieghe della storia. Ci sono i dittatori dichiarati e anche i dittatori nascosti, quando si parlava di quarto potere e del potere dei media. E anche quella è una forma di dittatura o no? E allora qui ci potremmo lanciare un po' su un'analisi anche un po' più larga. E tra l'altro c'è un articolo dell'Economist di questa settimana in cui si parla della guerra cibernetica, e la cyber war viene poi indicata come il quinto dominio, oppure potremmo anche tradurlo come quinto potere. Quindi magari, collegandomi alla tua domanda, potremmo esplorare queste nuove realtà dove effettivamente questa ipotetica terza guerra mondiale potrebbe venire a colpi di click di mouse. Quindi insomma, me già avviene a colpi di click di mouse, quando in realtà i capitali si muovono a colpi di click di qua e di là e riescono ad affondare. Adesso io vorrei vedere cosa succede alla povera BP, povera tra virgolette. Povera tra virgolette, sì. Ma insomma, qui si dice no, ma non c'è problema, c'è problema, però io i problemi li vedo e non vedo soluzioni. E una cosa che mi interessa, che mi sembra un po' interessante, è che la British Petroleum è sovvenzionato, comunque buona parte delle azioni della British Petroleum sono di fondi investimento, di fondi pensione, E quindi, se cade la BP, cade anche un bel po' di gente. Si parla di persone, non si parla più di numeri. Il problema è che ce ne stiamo dimenticando, meglio. Sì. Ai vertici abbiamo ci confondono le idee. Siamo diventati tutti numeri di matricola nuovamente. Eh sì. Numeri di IP, IPv6. Chissà se è in linea. Ambasciatore. Sì, buonasera. Ah, buonasera, benvenuto buonasera, a Bruxellando. Nuovo, che piacere risentirvi. Il piacere veramente è tutto nostro. Grazie. Noi la ringraziamo della squisita disponibilità e siamo lieti di aver potuto già leggere Tiranni e Dittatori. Noi abbiamo già annunciato brevemente i contenuti e quindi la domanda ci sorge spontanea. Come mai ha deciso di descrivere, dopo aver descritto le spie, dopo aver descritto i signori della truffa, come mai si è soffermato proprio sui tiranni e sui dittatori? Qual è stato, insomma? Proprio perché dopo le spie, dopo i truffatori, alzando un po', si arriva ai tiranni. No, in realtà avrà visto che il libro non si riferisce ai grandi dittatori del Novecento, sui quali già è stato scritto tanto che sarebbe stato poco da parte mia, realistico fare una lista di tutti i grandi dittatori, perché non sarebbe bastata una enciclopedia. No, io ho voluto soltanto di alcuni dittatori minori tra virgolette, perché i danni sempre danni terribili fanno alle popolazioni che amministrano, cercando di proporre alcuni casi emblematici per ogni tipologia, no? Tiranni e decolonizzazione, tiranni e business, tiranni e culto della personalità, eccetera. E il motivo principale è che realmente, parlando soprattutto con dei giovani, con degli studenti universitari, mentre personaggi che per la mia generazione sono ancora molto presenti nella memoria, voglio dire Boccassà, Idi Amin Dada, eccetera, a un giovane ventenne magari sono nomi che non dicono molto, e questo mi ha molto meravigliato, e quindi mi è venuta questa curiosità di approfondire un po' le vicende di questi personaggi e di farne uno studio, un volumetto, come per le spie e per i truffatori. Quali sono gli elementi, i tratti in comune di questi differenti dittatori nel tempo? Perché lei abbraccia poi un secolo intero, il Novecento, quindi ci sono tratti comuni? Sì. Ma sì, guardi, la prima sorpresa, che poi non è una sorpresa, è che c'è sicuramente un filo di follia, di lucida follia che accomuna tutti questi dittatori, e tutti in realtà iniziano, no, con l'appoggio popolare e finiscono invece con la ripulsa generalizzata. In genere tutti immancabilmente vogliono creare l'uomo nuovo, vogliono dar vita ad una nuova era, vogliono creare nuovi principi, e tutti sono animati da questa ansia di marcare le fasi temporali di un'epoca, no? Abbiamo visto nuovi calendari, nuove numerazioni, e soprattutto tutti si credono investiti da una missione trascendentale, insomma, chi addirittura da Dio, no? Dio uh-huh. Spesso e volentieri disturbato dai dittatori, chi da entità animiste, chi dall'essere supremo, insomma tutti propongono questa visione trascendentale. E sono tutti uomini universali, perché sanno sempre tutto di tutti gli argomenti, hanno la soluzione a tutti i problemi. E altro tratto comune, vabbè, questo è evidente, il distacco dalla realtà quotidiana, cioè questa è una malattia di cui soffrono a volte anche i nostri governanti democratici, però loro perlomeno ne guariscono nel momento in cui sono costretti a lasciare il potere, perché c'è un'alternanza democratica. Il dittatore questo distacco dura tutta la vita, per cui è un'altra di quegli elementi che gli accomuna, che mi ha che mi ha molto meravigliato, insomma. Il dittatore è convinto che i suoi sudditi, i suoi cittadini servono a lui, a dare concretezza alle sue ossessioni, alle sue aspirazioni, non immagina che il suo sistema che dovrebbe mettersi al servizio dei cittadini. La scelta dei temi, perché insomma, come lei prima accennava, lei ha praticamente analizzato i dittatori sotto differenti profili, quindi c'è la decolonizzazione, c'è il business, c'è il culto della personalità, lo sterminio, ahimè, insomma, questo purtroppo tendiamo a dimenticarlo, però è stato sicuramente uno degli elementi salienti di molte dittature. E poi temi magari meno noti come le dittature paranormali e più noti come quelli della propaganda. È stato semplice scegliere queste differenti categorie? È stato semplice ricercarne le fonti? Insomma, quanto tempo ha richiesto la stesura di questo libro? Ma guardi, è stato relativamente semplice perché, ripeto, non ci sono rivelazioni particolari, sono personaggi soltanto da riscoprire e da riproporre in maniera da fare in modo, insomma, che queste storie vengano lette, perché spesso certi personaggi, non so, come Boccassà, certo forse molti ricordano l'incoronazione, il fatto del cannibalismo, insomma pochi flash, e di ognuno io ho cercato comunque di rifare un po' la storia, di dare anche il quadro, di contestualizzare, come si dice, no? Il quadro dell'epoca, per esempio di Boccassà, ricordare come all'epoca paesi, insomma, europei importanti, la Francia soprattutto, visto che il Centro Africa, no, era una colonia francese, hanno appoggiato questi dittatori proprio in un momento in cui la decolonizzazione era abbastanza confusa, perché questi paesi non erano più delle colonie, ma non erano ancora degli stati indipendenti, uh-huh. Come la madre patria, non era più la madre patria, però non era nemmeno che si potesse considerare uno stato etero. In questa fase, stranamente, sia in paesi francofoni, ma anche in anglofoni, si sono verificati fenomeni simili. Infatti, se si esaminano un po' le vicende di Boccassà con quelle di Idi Amin Dada, si scoprono delle analogie sconcertanti. Cioè, le ex madre patria hanno cercato di appoggiare questi dittatori finché hanno potuto, sempre nella speranza di poter mantenere i propri interessi. Poi, quando la situazione è stata indifendibile, quando Boccassà e lo stesso Amin Dada sono stati accusati di cannibalismo, hanno dovuto, però il giorno dell'incoronazione all'imperatore del Centrafrica, Boccassà aveva un parterre di uomini politici, ministri europei, insomma è piuttosto sorprendente che si prendessero sul serio dei personaggi del genere. Ecco, ambasciatore, ne approfitto, visto che stavamo parlando di Boccassà, ma sì. Questi tiranni, questi dittatori, come vanno al potere? È sempre una questione di esercito, è sempre chi ha il potere, chi ha il comando dell'esercito che riesce a fare un colpo di Stato? Ci sono esempi di dittatori che non hanno utilizzato l'esercito? No, sì, in queste situazioni particolari, certo chi ha il comando delle forze armate più facilmente può impadronirsi del potere, però no, abbiamo anche casi, e quello è proprio il problema, di dittatori che arrivano al potere con l'appoggio popolare, anzi vengono invitati ad andare al potere e poi strada facendo invece si trasformano in boia del popolo, insomma. Il problema è proprio lì, saper riconoscere, cioè mentre tecnicamente il dittatore può non sempre diventare tiranno, cioè il dittatore è una persona alla quale in un periodo determinato gli si possono anche conferire pieni poteri perché la situazione straordinaria lo richiede. Ecco, se poi passato il periodo, come erano i dittatori dell'antica Roma, no? Da loro, certo, si chiamavano così perché avevano il potere per un periodo, e quindi può succedere che non diventi tiranno, mentre il tiranno è già un dittatore perché prende il potere con la forza. E beh, poi abbiamo visto i casi più eclatanti, sono lo stesso Hitler, comincia a parlare di poi nella gestione, nel fatto che tutti hanno questa tendenza non solo a non voler lasciare il potere, ma anche a volersi perpetuare, voglio dire, addirittura nella stessa Corea del Nord, adesso è stata accettata, voglio dire, in principio l'idea che a succedere all'attuale dittatore sia suo figlio, quindi avremmo già una terza generazione, una vera e propria monarchia, insomma, quindi non solo perpetuarsi nel potere, ma addirittura assicurarsi una potenza. Adesso è succeduto il figlio Kim Jong-il, il quale ha nominato come suo successore Kim Jong-sun, quindi un paese comunista dove sembra che si sia instaurata una sorta di monarchia. Ah, certo. Cioè, in tutti, nella stessa Libia il figlio preferito di Gheddafi è stato indicato come suo successore, quindi anche questo è un caso emblematico, cioè Gheddafi va al potere con un colpo di Stato per eliminare la monarchia e poi c'è questo desiderio di pensare di durare per sempre. E anche questo con l'appoggio anche attuale di un bel po' di potenze europee. Sì, io insomma, il problema è che questi personaggi magari hanno il controllo totale del paese, poi ci vengono sempre a dire, certo, che ci sono problemi di realpolitik, bisogna collaborare perché ci sono interessi economici, interessi strategici, questo lo capisco, però forse mettere sempre un maggiore accento, no, nella questione dei diritti dell'uomo, della democrazia, insomma esigere sempre in cambio un qualche cosa forse non sarebbe, ma dopo questo con personaggi, insomma, Bokassa, è vero che dalla famosa accusa di cannibalismo fu assolto, no, nel processo in cui fu condannato a morte per altri reati. Però insomma tutti dicono che in quell'occasione la difesa di Bokassa fu molto intelligente perché riuscì a far capire che non poteva essere condannato per cannibalismo, perché tutto il paese ne avrebbe subito le conseguenze, cioè l'opinione pubblica internazionale avrebbe pensato che certamente eliminare definitivamente il nemico, no? Mangiandone anche un po' della sua carne, e quindi fu assolto, ma in realtà ci sono testimonianze talmente precise dei suoi cuochi che hanno confessato di aver preparato certi orrendi, orribili piatti, e quindi non era probabilmente infondata questa accusa, anche se poi per altri motivi è stata nascosta. Sì, è stata nascosta e si è persa. Però è vero che c'è questo sempre commistione, c'è questo riferimento alla vita, e mischia, si programma anche capo religioso e mescola proprio questa sua presidenza vita con la religione. Tant'è che gli alunni haitiani sono costretti a recitare ogni giorno questa preghiera. Nostro Doc, che sei nel Palazzo Nazionale per la Vita, che il tuo nome sia benedetto dalle generazioni passate e future, che la tua volontà sia fatta a Port-au-Prince e in provincia. Dacci oggi la nostra nuova Haiti, non perdonare mai le offese dei senza patria che ogni giorno infangano il mio paese. Insomma, un bel mix fra la regione voodoo e quella cattolica, insomma, ci sono delle assonanze del Padre Nostro. Sembra incredibile, ma è un bambino, popolazione analfabeta, umile, eccetera, ci credevano, quindi lui aveva un ascendente tale sulla popolazione che nella elezione presidenziale, quella ancora normale, però era talmente forte l'ascendente che fu eletto all'unanimità, cosa che un'elezione presidenziale diretta non ebbe nessun voto contrario, nessuna attenzione, che fa pensare che effettivamente c'era qualcosa di anormale, un presidente da parte di un Parlamento, ma un'elezione diretta, cioè milioni di persone. Sì, è un'altra cosa. Incredibile. Io stavo pensando anche a un'altra domanda che avevo in testa. Già c'è un po', anzi ne ho altre due. La prima è, aveva già accennato la distinzione fra tiranni e dittatori. Ce la può spiegare meglio? Ma guardi, io credo che in definitiva sono sinonimi. Sì, attualmente sono sinonimi, è vero. Come? No, dico, attualmente sono usati come sinonimi, sono assolutamente sinonimi. Sì, sì. Però c'è una storia diversa. È vero, appunto, come dicevo prima, il tiranno, a parte l'etimologia, tiranno latina, sì, cioè dittatore latino e tiranno greco, il dittatore è qualcuno che assume a un certo punto tutti i poteri, ma può arrivarci anche democraticamente, anche senza... violenza, e poi però può assumere un atteggiamento tale per cui diventa tiranno. Il tiranno è quello che già che si impossessa, diciamo, del potere in maniera violenta e lo esercita già dall'inizio in maniera dispotica, ecco, se vuole, però mi rendo conto che la distinzione è piuttosto... Sì. Piuttosto esile, le dico anche la verità che il titolo non è mio ma è dell'editore. Ah, ecco. Ah, ecco. Quindi ce l'ha ha voluto giocare. Ah. Vabbè, potremmo anche dire. Avevo fatto un altro titolo, l'avevo intitolato La follia al potere, e poi non so perché non è piaciuto. Ma il motivo per cui non è piaciuto, forse glielo posso. Non voglio suggerire, ma insomma, io avevo una seconda domanda, come avevo detto, e la seconda domanda è: quali sono i dittatori moderni? E mi spiego meglio, non intendo i dittatori di nuovo che bagnano nel sangue, ma i dittatori che influenzano in modo pesante, ma in modo forse eccessivo, e quindi diventano dittatori con i potenti, con i mezzi di informazione. Ecco, quindi quando mi parla di follia al potere mi viene da pensare che ce ne sono di follia al potere, anche se non vengono ufficialmente chiamati dittatori. Qualche paese in particolare, mente. No, sì, qualcuno. La domanda è alla quale è difficile rispondere, perché è vero, adesso magari le cose sono cambiate, le strutture, il modo di organizzarsi, di vivere, per cui è possibile anche che la dittatura si possa esercitare in maniera diversa, non in maniera tradizionale del XX secolo, no? Come ce l'immaginiamo, o un generale in America Latina, o un ideologo, un estremista che assume il potere e lo esercita in maniera violenta, con strage, eccetera. Sì, probabilmente esistono delle forme occulte, delle forme dove si utilizzano altri strumenti per condizionare l'opinione pubblica e queste persone che non appaiono evidentemente spesso allo scoperto, in qualche modo esercitano un potere molto forte, forse non si può parlare di dittatura, perché comunque nei nostri sistemi c'è sempre la possibilità a un certo punto di rimischiare le carte, di rimettere tutto in discussione con delle elezioni, però è vero che insomma la situazione si può in qualche modo controllare anche con diversi mezzi, che non proprio con l'esercito, certo, con la guerra, è molto più sottile, più difficile da scoprire. Sono Dani M dalla regia. Io poi mi volevo anche chiedere fino a quando, dove si trova il limite tra, per esempio, governanti come, non so, Ben Ali in Tunisia o Bouteflika in Algeria, che sono al governo da almeno 20 anni e si fanno rieleggere alle elezioni magari con vittoria all'80-90%, loro si proclamano presidenti di un sistema sulla base di una costituzione, però poi in realtà governano in maniera fondamentalmente dittatoriale, e il limite a volte è anche, insomma, anche l'assenza di un'opposizione, o comunque un'opposizione che viene denaturata e sradicata da un sistema, è un indice di forse di un qualcosa che non può essere definito al 100% dittatura, ai canoni della dittatura passata, ma di fatto lo è. Sì, sì, è vero, cioè bisognerebbe, esaminando queste situazioni, far riferimento forse a dei parametri precisi, no, per stabilire se un paese si può considerare democratico o non democratico, no? Perché all'apparenza, certo, è quel caso che lei citava, il sistema somiglia in qualche modo a quello democratico, ci sono delle elezioni, il presidente viene eletto con una stragrande maggioranza, le elezioni sembrano regolari, per cui non ci sarebbe nulla da dire, però bisognerebbe forse approfondire il funzionamento delle singole istituzioni, cioè vuol dire come funziona il Parlamento, come funzionano i sindacati, c'è un'opposizione libera, c'è una stampa libera, perché è facile dare l'apparenza di una democrazia, no? Con un'opposizione magari che fa il gioco della maggioranza, con un presidente molto, molto popolare, ma è popolare proprio perché utilizza quei famosi mezzi di cui parlavamo prima, per cui bisogna stare, ma se uno fa un po' una verifica, i sistemi autenticamente democratici sono forse molto, molto pochi oggi, veramente pochi, però è vero, ci sono delle zone grigie dove ma già quando c'è un'elezione che dà una maggioranza dell'80, del 90%, secondo me paradossalmente è un segnale preoccupante. Sì, un segnale che qualcuno è stato indottrinato forse in modo eccessivo, perché è praticamente impossibile, sì, averla, queste percentuali. Allora, di solito rubo l'ultima domanda che di solito fa Meridi, e la domanda è la seguente: visto che prima parlavamo di follia al potere che non è stato accettato, però cosa bolle in cantiere? Bolle per caso un nuovo libro che analizzi le dittature o tra virgolette le nuove forme occulte, o ci dobbiamo aspettare qualcos'altro? Guardi, a me piacerebbe fare una biografia vera e propria di un personaggio, perché questi ritratti sono forse interessanti, non lo so, però poi il rischio è che lasciano un po', come dire, l'acquolina in bocca, perché certi personaggi non si possono esaurire in 20 pagine, insomma, anche se così si dà si offre una visione panoramica, insomma. Però a me, ecco, piacerebbe dedicarmi ad un personaggio, e questo personaggio, lo posso dire, non c'è nulla di segreto, è Raul Castro, il fratello minore di Fidel. Di Fidel, certo. si sa quasi tutto, si è scritto, ci sono montagne di biografie. Invece del fratello, che attualmente è il presidente, che avrà questo incarico dell'eredità della rivoluzione, non si sa bene ancora che strada stia scegliendo di percorrere, è molto poco conosciuto, credo per gli stessi cubani, non è mai stato un personaggio molto, molto popolare. Ecco, mi piacerebbe approfondire una personalità di questo tipo. Ambasciatore, quindi noi di Bruxellando ci auguriamo di poter parlare di questa sua nuova prossima opera, magari forse con la quarta edizione di Bruxellando, la seconda edizione della Penna del Diplomatico, insomma, perché no? Magari a volte, insomma, tra una chiacchiera e l'altra, poi si arriva facilmente anche a qualcosa di più concreto. No, anche perché dobbiamo confessare, ambasciatore, questi suoi libri sono un cibo per la mente, cioè spingono alla riflessione, spingono ad avere uno sguardo più oggettivo di fronte alla realtà, e quindi, insomma, è una forma, già il fatto di scrivere nel mondo in cui lo farei, è già una forma di ribellione contro la tirannia e la dittatura. La ringrazio. Ambasciatore, noi la ringraziamo Le auguriamo una splendida estate. Grazie. Voi andate in vacanza? Sì, noi andremo in vacanza per 2 mesi, noi di Bruxellando, quindi agosto e settembre, e ricominceremo, credo, il primo martedì di ottobre. Benissimo, allora buone vacanze a tutti e complimenti. Grazie. Grazie, buona serata ancora. Di nuovo, salve. Grazie. Finalmente dalla follia al potere, alla follia alla radio, perché altrimenti non si può spiegare. Questa sera la follia di Georges Laurent. Ma spero che avete notato la sigla molto rock. No, l'abbiamo capito, ma non so quanto i nostri amici all'ascolto. Ora si vede. Ecco, spero che hai registrato, Daniele. Ecco. Ci sono anche i tocchi e ritocchi, volendo poi. Sì, della mia mente, tocchetto e ritocchetto. George, prima o poi ti preparerò una colonna sonora tutto per te. Che bello, che bello. Già mi viene la colina in bocca. Non posso immaginare. Ecco, che noi siamo sulla stessa lunghezza d'onda, anche senza metterci d'accordo, fondamentalmente. Esatto. Anche perché stasera vi parlerò prima di tutto di un libro che ho letto recentemente, che è di un autore ungherese, però tradotto in italiano, anche un autore contemporaneo, quindi che strano. Hanno tradotto un ungherese in italiano? Sì, ma non soltanto ungherese, ma ungherese della mia città. Wow! Allora, partiamo dalla città, qual è? Marosvacare. Per quelli che invece preferiscono la versione ufficiale rumena sarebbe Târgu Mureș, e per quelli che preferiscono la versione meno ufficiale tedesca sarebbe Neumarkt. In realtà quindi... è Abbiate Grasso. No, in realtà è proprio Marosvacarei. Beh, se volete proprio le radici latine, Novum Forum Siculorum. E quindi... Novum Forum Siculorum, che non ha niente a fare con i siculi della Sicilia, ma con i siculi, cioè la tribù sicula o popolazione sicula, che abitava e abita tuttora i monti della Transilvania. Però. Bravi siculi. Ecco. E quindi questo mio concittadino ha scritto un libro che si chiama Il Re Bianco, che è un saggio libro... sugli scacchi. Mamma mia. Scusa. Anche se non hai torto, completamente non hai torto, perché il Re Bianco si riferisce ad un pezzo di scacchi che lui ruba dall'appartamento di un ex ambasciatore. Comunque, stiamo parlando di un periodo molto strano, stiamo parlando del periodo di sotto Ceausescu, quindi è per questo che dicevo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché infatti quello era il nostro caro, tiranno. Non caro, assolutamente non caro, dittatore, o tiranno, non so quale, ambedue. E quindi lui sta scrivendo dal punto di vista di se bambino, o un bambino, diciamo, qualsiasi, un ragazzino che sta crescendo e che ovviamente ha le sue preoccupazioni da bambino di sempre, cioè sta facendo dei... cosa fanno i ragazzi? Cioè, un sacco di ragazzi si picchiano fra di loro, fanno dei giochi un po' fuori di testa, però oltre a questo, non so, le solite, diciamo, storie della crescita maschile, con cui magari mi riesco a relazionare un po' meno, cioè per esempio fare della guerra per una palla di per una palla pallone di pelle non è esattamente la cosa che mi entusiasmava quando era bambina, però accetto. E quindi oltre a queste scene che sono assolutamente, potrebbero essere di quasi qualsiasi bambino di qualsiasi paese, ci sono anche gli elementi che proprio sono definiti da questa mano invisibile che sta premendo sulla loro vita. sta premendo le parti più toccanti. Io ho trovato quelli in cui si tratta del padre del bambino e della sua assenza piuttosto che presenza, perché il padre di questo bambino è stato mandato per punizione, per aver firmato una protesta, è mandato per la costruzione di un canale del Danubio, poteva essere soltanto ideato da qualcuno completamente fuori di testa, cioè una grandissima opera che infatti anche oggi esiste, è stato completato tutto il resto, però ha costato un sacco di vite umane e per lo più ha costato le vite di persone che il regime non guardava ad occhio molto benevolo. E quindi il ragazzino cerca anche di proteggere la sua mamma. Per esempio, che è rimasta da sola, la mamma prova proprio qualsiasi cosa per riavere il suo marito, ed è in questo contesto che fanno visita per esempio a questo ex ambasciatore che cerca di prendere vantaggio di questa situazione, però ecco, non vi devo dire tutto, comunque è un libro interessante. Molte parti sono addirittura toccanti, quindi ve lo posso anche raccomandare, anche se generalmente si dice che nessuno è profeta in casa sua. Stavolta mi fa piacere di potervi raccomandare qualcosa che è stato scritto proprio da qualcuno che ha vissuto nello stesso spazio mio. Vogliamo ripetere un attimo il nome dell'autore? No, no, no, no, no, vogliamo dirlo. Vogliamo non scriverlo, vogliamo sul blog. E anche sì, perché si chiamerà con un nome impronunciabile che la gente dirà, ecco. Come scusa? Infatti si chiama Georg Drogoman. Georg Drogoman. Non è proprio quello, cioè un nome più difficile che possiamo inventare, però dai, cioè è sul limite. Per gli italiani sarebbe Georgi Dragoman. Georgi Dragoman, che però in inglese è di origine siciliana. No, cioè, è proprio di là, di quei posti. Però non sono d'accordo sul Nemo profeta in patria, perché in effetti lui non so se è famoso in patria, e tu in patria non ci sei in questo momento, quindi insomma. Quindi non posso nemmeno determinarlo. Comunque è stata mia cugina che ci vive, che mi ha raccomandato, anzi comprato questo libro. Però potrei rispondere: un rondine non fa primavera. Esatto. Non so se dirvi anche che cosa non leggere. No, il titolo, lo posso dire. Il titolo non l'abbiamo detto. Il Re Bianco. No, il titolo è Il Re Bianco. Il Re Bianco, perfetto. L'editore non lo sappiamo. L'editore non lo sappiamo. Con l'italiano non lo sappiamo, però basta che cerchiate Dragoman, Drago e Man, Dragoman, e insomma in Italia qualcosa dovrebbe saltare fuori. Se viene fuori un nome tipo strano, Giorgi, con delle lettere strane, beh, è lui. Il Re Bianco con delle lettere strane è lui. Qualche altra lettura da portare con sé al mare, oppure in montagna, o in viaggio, in vacanza? Cioè, magari se proprio vi volete far, non so, se avete proprio, come si dice, switch off, spento tutti i vostri neuroni e li volete spegnere proprio, allora potete leggere per esempio Il Club delle Ricette Segrete. Ah, bellissimo. L'ho letto. L'hai letto? Certo. Club delle Ricette Segrete, cioè, incredibile. L'ho letto in 2 giorni. In 2 giorni. Infatti, cioè, è leggerissimo. Le ricette sono anche interessanti. Devo dire che l'ho trovato un po' scontato, cioè un po'. No, dai, non era proprio, cioè, scontato. Già, più o meno dalla prima pagina già uno riesce ad intuire. Però è carino da leggere, sì. Si accende i neuroni, riesce ad intuire cosa sarebbe la fine. Però comunque, se volete proprio semplicemente lasciarvi andare, semplicemente farvi passare un po', di immaginarvi come il gusto nella vostra bocca delle ricette che accompagnano la corrispondenza di due amiche, allora fate pure. Leggetelo. Tra l'altro, un libro ricco di umanità. E di chi est? Di due autrici? Sì, una si chiama Israel, l'altra si chiama Garfinkel. Sì. Io conoscevo Simon, esatto. Garfinkel. Invece, ma questo è Garfinkel. Questo invece è Israel e Garfinkel. Le ricette segrete, il club delle il ricette. Il club delle ricette segrete, vale la pena. Hai capito. Vabbè, insomma, questo è un libro che si può comprare per per spegnere i neuroni. Se poi li riattivate, no, per capire come. No, per spegnere i neuroni, Giorgio. Ha detto lei per spegnere i neuroni. Ma no. Beh, scusa, l'ha detto. Ma no. Ha detto che si possono riattivare solo su una dalla prima pagina. Vabbè, io, ragazzi, mi intrufolo e vi propongo Acqua in bocca, il romanzo epistolare scritto da Camilleri Lucarelli. Olè. Editore Minimum Fax, molto interessante la tecnica narrativa, è un carteggio tra due investigatori, Salvo altro Montalbano e Grazia Negro. Altro non poteva essere, visto che sono gli autori di due personaggi. No, ma è molto, molto, molto carina l'idea di scriverlo in maniera epistolare. Sì. Io invece vi consiglio Tiranni e dittatori di Domenico Vecchioni, edito da Editoriale Olimpia. E quali sono i libri invece che non si devono leggere? Questo poi. Ragazzi, ce ne ho uno che mi ha deluso tantissimo, di Paolo Villaggio, Crociera Low Cost. Tanto osannato sui siti, insomma, di riferimento, eccetera. L'ho letto, se uno ha visto qualche film di Fantozzi, è un insieme di battute riciclate. E un altro che non veramente vi consiglio di non leggere è Orgoglio e Preveggenza, di cui mi sono dimenticata. Ah sì, l'autrice è una certa Brebì. Comunque cerca di imitare lo stile di Jane Austen, ma siamo veramente lontani, anzi lontanissimi. Non lo leggete, perdete solo tempo e denaro. E io invece vi consiglio di leggervi anche la storia segreta dell'Ira, perché dell'Ira? Dell'Ira. L'Ira quella irlandese? Irish Republican Army. Sì, dell'Ira irlandese, perché insomma è molto interessante vedere cosa è successo dietro, e anche è interessante, questa è una cosa che mi ha colpito molto, vedere il numero delle persone coinvolte. L'Ira ha sconvolto un paese intero, però il numero di persone coinvolte non era poi così grande, così come non lo era per le Brigate Rosse durante gli anni di piombo in Italia. Le Brigate Rosse erano uno sparuto numero, con dei supporti così forse ideologici di qualcuno, ma non dei troppi. Quindi com'è possibile creare un sacco di problemi in un paese solo da parte di uno sparuto, consentitemi di dire, sparuto gruppo di persone? Però se invece volete accendere tantissimi neuroni, leggete quel che sto leggendo io adesso. Cioè? Che però è tradotto solo in neozelandese. Ma no, in anche in italiano, anzi ha grandissimo successo. Si chiama, se niente conta, penso in italiano, comunque, Eating Animals di Jonathan Safran Foer. Eating? Animals. Eating animals. A proposito di cannibalismo, sì. È molto animals. Interessante, davvero. Cioè, sono all'inizio, però, per esempio, quando fa l'elenco dei pesci che, per esempio, vengono pescati come bycatch, cioè come si potrebbe dire, pesca. Effetto secondario. Sì, come effetto secondario della pesca. Pesca non intenzionale. Esatto, fa una lista che è un paragrafo lungo, un ottavo. Per un steak di tonno, cioè è proprio già basta, Ecco, quindi. È per vegetariani sto libro? Non è per vegetariani, è per no, far è per pensare. Per diventare vegetariani, cioè quello che non sappiamo, mentre sappiamo che esistono anche a livello internazionale delle regolamentazioni sulla cattura del tonno, sulla pesca del tonno, niente o poco viene detto sugli effetti secondari di questa pesca, che sono appunto gli altri animali, gli altri pesci che rimangono imprigionati dalle reti, certo. E che comunque non sono commerciabili, quindi vengono semplicemente gettati, a volte vengono rigettati in mare, buon per loro, ma la maggior parte insomma schiatta e diventa cibo per altri pesci, cibo per gabbiani, insomma, o comunque viene decomposta. Quindi anche questo non disturba la pesca dei tonni, disturba comunque la pesca. Anche cioè, disturba la vita degli altri animali, insomma, poi l'ecosistema poi in generale. Assolutamente. Ci sono altri suggerimenti o possiamo chiudere il librangolo? Possiamo chiudere il librangolo così? Per il momento, dai, continuate a leggere. Librangolo. Noi invece abbiamo ancora due piccolissimi, non so se George poi ha altri eventi da ricordare in ambito dell'agenda di Bruxelles. La settimana scorsa direi che è stata veramente, insomma, quest'anno azzeccata la mossa di Bruxelles-Bern, che come tutti gli anni quindi rivive lungo i canali all'Aken tutti i giorni, quindi per quanti insomma vogliono approfittare di questo meraviglioso sole bruxellese, Bruxelles-Bern quest'anno effettivamente risulta essere il luogo di tendenza più appropriato. Invece è cominciato proprio qualche giorno fa il festival Ecran Total al cinema Arenberg, e fino al 14 settembre ci saranno circa 70 film per tutti coloro i quali amano il cinema, quindi ci saranno anche remake di film un po' più diciamo di qualche anno fa, ma non solo, ci saranno anche inediti, quindi c'è tantissimo che bolle in pentola. Quindi 2 mesi e mezzo, 74 film, incontri, dibattiti, e per chi volesse saperne di più, Cinema Arenberg, Galleria della Ren 26 al 1000 Bruxelles, e il prezzo di entrata è di 8 euro, 6,60 tariffa ridotta e 60 per gli abbonamenti, vi ricordo, dal 30 giugno fino al 14 settembre. C'è una bellissima mostra invece che per ricordare quelle che sono le relazioni tra l'Europa e l'Asia, è Passage to Asia, quindi 25 secoli di scambio tra l'Asia e l'Europa, quindi vi invito a vederla perché effettivamente raccoglie il meglio di quelle che sono le glorie, la ricchezza e il potere che ha caratterizzato questi due straordinari continenti, l'Europa e l'Asia, al Palais des Beaux-Arts, come al solito al Rue Ravenstein 23 al 1000 Bruxelles. 8 euro è la tariffa per accedere tutti i giorni fino al 10 ottobre. E continuiamo col cinema perché c'è anche la Camera Belgica. Camera Belgica che offre quest'anno una cosa un po' interessante, diciamo, in coproduzione con Cinemateca, e cioè delle sedute di cinema all'aperto. Voi direte, ma che è sta roba? Eh sì, ma questo è il Museo Bellevue. Museo Bellevue a Place des Palais 7, che è all'ombra dei giardini, offre una selezione di film che percorrono la storia e dicono loro la nostra grande storia, ma insomma ognuno dai suoi punti di vista, del XX secolo. E quindi film animazione, cortometraggi sperimentali o lunghimetraggi firmati da grandi cineasti belgi, senza dimenticare le prime pubblicità, quindi sarà anche molto interessante. Ci saranno anche dei film muti accompagnati, cinema muto accompagnato al piano come si faceva al tempo. Quindi nel contempo sarà anche aperto il museo, si può andare a fare un giro, il tutto per un prezzo di eccezionale 5 euro, quindi vale assolutamente la pena. Per chi volesse saperne di più, www.belvue.be, e dal 2 luglio, quindi già cominciato fino al 27, insomma, ci saranno queste sedute di film. Ma ti ho interrotto, stai per dire qualcosa? No, effettivamente per quanti come me ne sanno poco, sarebbe effettivamente un'ottima iniziativa per colmare alcune lacune relative al cinema belga. Certo, i loopholes sono sempre dietro l'angolo. Ma poi bisogna aggiungere questa: Bruxelles fa il suo cinema 2010, sono 11 sedute di cinema gratuite, e quindi è un cinema itinerante all'aperto che avrà la sua ora di gloria nei paesi mediterranei, quindi è il modo di scoprire Bruxelles e i suoi piccoli angolini interessanti in un ambiente multiculturale qual è appunto Bruxelles. Quindi c'è un programma incredibile che comincia quindi al sorgere della notte o al calare del sole, quale dei due preferite, cioè verso le 10:15 comincia la produzione del film, e mentre prima c'è un po' di stand, insomma, con snack e boisson del Mediterraneo, non so, forse fanno delle bruschette, un po' di vino tavernello. Bruschetta, chi lo sa. Comunque il programma è interessante perché si parte da Saint-Jos, poi si va a Bellamy, si va a Boulogne-Saint-Lambert, Scarbeck, Molenbeek, Dergemini, Inderlecht, Uccle, Jette, insomma c'è di tutto e di più. Se volete saperne di più andate su www.liberationfilms.be e comincerete a trovare qualcosa di interessante e avrete almeno dei bei film da vedere assolutamente gratuiti. E mi raccomando, fate in fretta perché dal 10 al 20 luglio, io me lo perdo, però pazienza. Infine Bruxelles, il festival del teatro, l'estate a Bruxelles, dal 13 luglio, quindi dalla settimana prossima, fino al 25 settembre, al Castello del Karreveld. Avremo modo di parlarne più nel dettaglio, sono tante le manifestazioni che si annunciano nell'ambito di questo festival straordinario che per l'appunto apre i battenti martedì prossimo e terminerà il sabato 25 settembre. Cari amiche, cari amici, noi siamo al termine di questa puntata, io ringrazio tutti, ringrazio l'ambasciatore Vecchioni per la squisita disponibilità. Dani MRG, a notizie dal match di semifinale Uruguay-Olanda. Sempre 1-1, rete di Forlan, quindi dopo qualche minuto. Quindi speriamo bene che vinca il migliore. Ringraziamo Fiordaliso e Georges Laurent. E ci rivediamo martedì. È la grande prossimo. Meridì. Vai, ciao, ciao. Meridì. Ciao. A tutti.